Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, benvenuti, sono le 16.07, Luca Tremolada al microfono, Luca dello Iacovo con lui, oggi l'Immacolata, giornata di festa, noi facciamo un po' di pulizie, no? Cioè cerchiamo un po' di fare un po' di chiarezza nel disordine. Sì, e cerchiamo di capire se poi l'utilizzo di Twitter o dei social network sta semplificando la vita delle persone oppure se la complica enormemente e diventa un caos. La seconda che hai detto, ma non è così, non è la seconda che hai detto, anzi noi siamo tra quelli che insomma credono moltissimo nell'utilizzo di Twitter, che forse l'hanno anche scritto su Nova prima che prendesse piede, possiamo dire un po' d'orgoglio su ma via. Sì. Siamo stati bravi, l'avevamo capito prima, tuttora però è vero che è uno sconosciuto e il punto di partenza è che tra Twitter, l'SMS, poi c'è il blog e poi c'è il cellulare e mi fermo qui, cioè... C'è una gran massa di cose e soprattutto poi ognuna richiede tempo e come cambia poi il modo in cui noi utilizziamo queste cose? Cioè il fatto di avere Twitter cambia il modo in cui utilizziamo gli SMS? Bah, ve lo capiremo in questa puntata. 824 0024 il numero verde per chiamare in trasmissione, 349 238 6666 gli SMS, per cui se vogliamo che oggi, cioè l'obiettivo è quello un po' di capire come si usa come si usano insomma SMS un po' lo sappiamo, diciamo più che altro Twitter, insieme a Twitter e lo facciamo naturalmente con dei giovani, dei super giovani, degli esperti, insomma la generazione di nativi digitali di nativi digitali, lo diciamo un po' con orgoglio anche qui, oggi giornata dell'orgoglio, è già la terza volta che lo dico e lo facciamo anche da persone che insomma lavorano nel campo, mi sembra di capire. Ne presentiamo una? Sì, presentiamo Dario Salvelli che è un blogger, buongiorno. Buongiorno, quanti anni hai? 26. Infatti, 26 è giusto, la scheda quindi è giusta, la facciamo partire subito. Dario Salvelli è un blogger di 26 anni. Finora su Twitter ha pubblicato 4.000 messaggi e 1.000 persone leggono le sue segnalazioni su internet. A partire dal 2005 ha aperto un blog. È uno spazio in cui esprime il suo punto di vista, ma è stato anche un trampolino di lancio per esplorare il web e conoscerne alcuni protagonisti. Per un anno Dario Salvelli ha partecipato allo sviluppo del sito di Roberto Saviano, lo scrittore napoletano autore di Gomorra. Adesso è studente alla Facoltà di Ingegneria della Seconda Università di Napoli. Il prossimo traguardo è la laurea e continua il suo impegno alla scoperta di Twitter, social network e blog. Allora Salvelli, innanzitutto come ti esprimi, con quanti strumenti, insomma descrivici un po' il tuo armamentario tecnologico, poi andiamo a capire che cosa vai a dire, però insomma prima vediamo come lo dici. Beh, io uso, a parte usare il blog su una piattaforma WordPress, che è una delle più utilizzate, usando anche Twitter, poi FriendFeed, che sono è un aggregatore dove è possibile importare sia i post. Parliamo semplice, Salvelli. Un passo alla volta. Quindi abbiamo sicuramente il cellulare, poi abbiamo FriendFeed, che andremo poi a capire dopo che cos'è. Poi abbiamo Twitter. Twitter è nato come un sistema di uno strumento di comunicazione istantaneo quasi, sono 640 caratteri, quindi è come scrivere un SMS che tutti possono leggere, ovviamente in funzione se il nostro account è pubblico o, come avviene un po' su Facebook, è privato. Ecco, quali sono gli argomenti che però in genere poi scrivi su Twitter? Gli argomenti sono segnalazioni dei post, però sono anche segnalazioni di stati d'animo o link a video, foto che trovo interessanti sul web. Lo uso come strumento per ricevere fondamentalmente dei feedback da chi mi legge. Tra l'altro io sono seguito da 1.000 persone, però riesco a seguirne io soltanto 500 circa. Ecco, spieghiamo bene che cosa vuol dire sono seguito da 1.000 persone. Che 1.000 persone si sono abbonate al tuo notiziario sostanzialmente, no? Sì, sì, esatto, sì. Ci sono 1000 persone che leggono i messaggi che io posto giornalmente o quasi, mentre c'è un'altra parte di persone che invece seguo, e quindi che, delle quali io leggo i loro update, come avviene anche su Facebook. Esatto, quindi cioè, ah ecco, perché poi Facebook non l'hai neanche nominato, tu sei anche su Facebook, immagino. Sì, sì, lì però ho un profilo un po' più, dove c'è una privacy un po' più spinta, tra virgolette, nel senso che sono un po' restio ad accettare tutte le richieste di amicizia, mentre invece su Twitter lo uso più come un forum un po' aperto a tutti, quindi è possibile farmi delle segnalazioni o via messaggi diretti. Quindi, se abbiamo capito bene, in effetti Twitter è uno spazio più pubblico, Facebook è uno spazio un po' più privato. La differenza con l'SMS, per esempio, tra Twitter e l'SMS, allora potrebbe essere che l'SMS quindi è un messaggio che si manda una sola persona, mentre Twitter poi lo leggono in tanti? Sì, potrebbe essere questa la differenza. In realtà Twitter è nato come uno strumento di non solo in un team di lavoro, ma nacque l'idea di realizzare uno strumento che possa essere potesse essere utilizzato da amici, ad esempio per organizzare un evento, una serata. Infatti la domanda iniziale era what are you doing, cioè cosa stai facendo, ora si è trasformata in what's happening, cioè cosa accade ora. Diciamo che queste volte sì, da un passaparola, come può essere stato tradotto sostanzialmente, no? Sì, sì, sì, sì. Infatti, tra l'altro, molte aziende ormai lo usano, non solo magazine, siti di news, ma anche aziende lo usano per costruire il proprio brand attraverso Twitter. Pensa che addirittura il Sole 24 Ore, ci siamo anche noi, tra l'altro, permettete uno spot, insomma, 24 Copenaghen alle 16.30, dopo le 16.30 ci collegheremo con Copenaghen, con Gigi Donelli, e là gli inviati del Sole 24 Ore tengono un Twitter che insomma aggiorna su quello che sta accadendo al summit del clima. Per cui insomma, accidenti, è uno strumento che ormai è stato, diciamo, masticato, magari non ancora digerito, ma sicuramente masticato dai cosiddetti media tradizionali. Gli esempi di utilizzo sono super una decina, se li vogliamo riassumere. Possibile utilizzare Twitter come to-do list, come strumento di to-do list, cioè la lista di cose da fare durante la giornata, oppure per leggere le news, quindi sostituirlo fondamentalmente a un lettore, a un feed reader. Ecco, cioè leggere le news in che senso? Perché ci sono delle persone che scelgono le notizie e quindi io le trovo su Twitter? Esatto, sì, c'è un lato, da un lato c'è un giornalista, ad esempio la CNN ed anche altri mainstream, tra virgolette, selezionano le notizie, i propri articoli giornalieri, e pubblicano il link su Twitter, e quindi io posso leggere l'update e andare insomma sull'articolo, invece che utilizzare ad esempio, non so, un RSS. Quindi diciamo, un RSS, e poi lo dovresti spiegare. Per cui adesso facciamo un gioco, che ogni volta che dici una parola che non tutti sanno la devi spiegare, così insomma vediamo che duriamo un'ora. No, ma a parte di scherzi, Salvelli, faccio un esempio insomma di che cosa stai twittando in questo momento. Sai, perché tu naturalmente sei in collegamento con noi, però puoi tranquillamente twitterare. Sì, certo, infatti ora sto twittando, sto scrivendo e sono live su Radio 24. Ok, un altro quindi esempio di contenuto che vai a mettere, perché io chiaramente leggo anche delle cose che sono curiose, nel senso quello che si alza e dice buongiorno, no? Per cui ti leggi e leggi buongiorno, quello oggi è una giornata piovosa, per cui c'è un non senso, un qualcosa che dice, viene a dire un po' chi se ne frega, cioè fondamentalmente, però c'è un mondo abbastanza variegato, perché accanto alle persone che esprimono il proprio stato d'animo c'è tutto un mondo che invece va a pubblicare gli articoli più interessanti che ha letto su internet, le ricerche, chiede sondaggi, chiede informazioni. E non c'è pericolo poi che ci sia anche un po' di confusione in tutto questo? Cioè, dal tuo punto di vista, non è che, ecco, avendo la possibilità di scrivere qualsiasi cosa, poi ci sia un'eccessiva immissione di stati d'animo e di notizie? Sì, c'è un problema che riguarda anche, tra l'altro, lo spam. Ci sono stati dei casi in cui... Cos'è lo spam? Sono messaggi indesiderati, quelli che riceviamo nella nostra casella di posta elettronica, spesso sono messaggi pubblicitari, Poi da non confondersi ad esempio col phishing, che è un'altra tipologia comunque. No, non ci addentriamo troppo. Non ci addentriamo, no. Però comunque il problema dell'eccesso di rumore esiste. Twitter l'ha, tra virgolette, risolto aggiungendo dei trending, cosa in pratica si parla, gli argomenti insomma... Dei temi? Sì, volevo cercare di tradurlo, sì, dei temi giornalieri che ci sono su Twitter ogni giorno, e quindi è possibile andare poi a andarsi a cercare un argomento specifico, non so, oggi si parla di Copenaghen e quindi si usa COP15. COP15, un hashtag COP15 con il quale possiamo andare a cliccare su questa keyword, su questa parola COP15 e leggere i tweet. Quindi sostanzialmente cosa succede? Succede anche che grazie a queste tag, queste parole d'ordine, io riesco anche a istantaneamente leggere tutte le notizie, tutti i commenti, tutti gli stati d'animo che riguardano un determinato tema. Nel caso di Copenaghen era piuttosto interessante, perché mettendo appunto cancelletto COP15 si ha un po' un polso non solo di quello che sta succedendo là, ma anche di quello che le persone che possiedono un account Twitter pensano. Per cui insomma, in un qualche modo si partecipa a una conversazione un po' importante, nel senso si partecipa anche una Vox Populi, sì, una Vox Populi dove mi viene da dire sei protagonista, perché è molto pubblicitario e orrendo, però il tema è quello insomma dove tutti quanti abbiamo la possibilità di dire la nostra, magari anche guardando la televisione, magari anche leggendo un articolo di giornale. Per cui insomma è certamente uno strumento di partecipazione, no Luca? Sì, e soprattutto ci permette di avere un ruolo attivo in effetti, perché non è soltanto ascolto come ci sta raccontando Dario, ma è anche poi un modo, ecco, per raccontare, per esprimersi, e nel tempo poi diventa anche una sorta di archivio, no? Una sorta di memoria, e tutto questo viene poi trasmesso alle persone con cui siamo collegati, che a loro volta poi lo ritrasmettono. Sì, tra l'altro infatti questo aspetto qui, che tra un anno noi digitando COP15 andremo a rivedere le speranze, le attese. Noi oggi non sappiamo ancora cosa accadrà a Copenaghen, se partorirà un topolino, se la montagna partorirà un topolino, non sappiamo nulla, però insomma potremo ripercorrere le tappe di queste importanti settimane e le emozioni che altrimenti sarebbero andate perse. Sì, Dario. No, volevo dire che tornando anche agli SMS, il potere poi della sintesi è abbastanza forte, perché Twitter viene usato anche per fare live blogging, cioè scrivere di un evento che sta accadendo, in questo caso Copenaghen, e quindi poi sarebbe possibile citare vecchie dichiarazioni di qualche politico o comunque di un esponente e poi commentarle negli anni successivi. Ecco, chiudiamo una precisazione: l'account è esattamente, spiegalo tu Luca, cos'è l'account? L'account è diciamo il posto in cui una persona scrive, e quindi è diciamo è come la casella di posta elettronica, fondamentalmente è il tuo indirizzo, praticamente nel caso di Twitter. Se io vado sul sito www.twitter.com gratuitamente, mi iscrivo e a quel punto possiedo un account, ovvero possiedo la possibilità di scrivere e di utilizzare Twitter. Questo perché c'era un SMS che ci chiedeva una precisazione. Ma proprio a proposito di SMS, io andrei a chiamare in causa Davide Marrone, fondatore di Skebby. Buongiorno. Buongiorno. Anche per lei, giovanissimo, quanti anni ha? Sì, 27 appena compiuti, anch'io stessa età, quasi stessa età. 27. Sì. 27. Allora, abbiamo una scheda anche per lei. Il colpo di genio è arrivato durante un viaggio in autobus. L'idea è di progettare un software per inviare SMS gratuiti. Sono i primi passi di Skebby. La vita di Davide Marrone, però, cambia nell'estate di 2 anni fa, quando la sua invenzione diventa famosa in Italia grazie al passaparola su internet. Il secondo colpo di fortuna arriva sul treno Ancona Milano. Incontra un imprenditore disposto a finanziare il suo progetto. Davide Marrone vede avverarsi il suo sogno. Adesso Skebby è seguito all'interno dell'acceleratore di impresa del Politecnico di Milano. Sono 80.000 gli utenti che usano il software gratuitamente e 4.200 pagano per inviare SMS verso gli operatori telefonici. Inoltre, i messaggini di Skebby sono utilizzabili per scrivere anche su Twitter e su Facebook. Salve Marrone, quindi in effetti Skebby si può usare per scrivere anche su Facebook e su Twitter? Sì, Skebby è nato inizialmente come strumento per mandare SMS via internet dal proprio telefonino e successivamente si è evoluto aggiungendo nuove funzionalità. Abbiamo introdotto anche la possibilità attraverso un semplice SMS quella di arrivare sui social network, quindi su Facebook e su Twitter. Non solo, in realtà quello che vorremmo fare noi è portare questi strumenti direttamente sul cellulare. Come sappiamo, Twitter non è ancora presente, ad esempio, in Italia sui nostri telefonini. La nostra idea è quella di poter creare... Non è ancora presente? In che senso, mi scusi? Cioè, adesso se io voglio utilizzare Twitter, ho la possibilità di twittare andando sul sito internet e facendo, diciamo, da un computer. Ma anche da un cellulare? Anche da un cellulare, cellulare. No, ho sbagliato io, scusatemi, volevo dire via SMS. Scusatemi. Per la tua piattaforma sono gli SMS. Effettivamente è possibile farlo utilizzando internet dal cellulare, ma quello che vorremmo fare noi è... semplificarlo. Negli altri paesi, tipo in America, Twitter ha avuto un successo formidabile soprattutto perché era accessibile via SMS, quindi un'interfaccia conosciuta da moltissime persone e utilizzata per anni, e grazie a questa interfaccia è possibile tuttora, mandando un semplice SMS. Quindi volete replicare il successo che c'è stato all'estero negli Stati Uniti, dove in effetti poi Twitter e gli SMS si confondono un po' in alcuni casi? Esattamente. Noi siamo partiti solo con gli SMS come punto di partenza, quindi far passare gli SMS su internet. Quello a cui vorremmo arrivare è esattamente quello, mischiare i due componenti tra SMS e queste microcomunità, questi canali dove ognuno può effettivamente creare il proprio canale, se ha qualcosa da dire e chi vuole può sottoscriverlo, ricevere in tempo reale, in questo caso via un SMS di aggiornamenti. Quindi ecco, Marrone, ma quindi com'è che si fanno? Cioè, il suo è un punto di vista da imprenditore, nel senso, sì, è chiaro che il suo approccio alla materia non è turistico, è estremamente professionale, vuole... ma i soldi come arrivano? I soldi si possono prevedere in diverse modalità. Noi stiamo pensando sia a dei canali aperti dove magari i contenuti sono di basso valore, quindi l'utente vuole riceverli gratis e in questo caso si può sussidiare tutto dalla pubblicità. Ma ci immaginiamo anche che ci siano tanti contenuti importanti per un utente che secondo noi sarebbe disposto anche a riceverli a pagamento. Cioè, ma quando parliamo di contenuti, di cosa parliamo esattamente? Ma ecco, il valore dei contenuti in questo caso, che non dovremmo essere noi come Skebby o comunque chi per esso a dover pensare ai contenuti, ma dovrebbero essere direttamente gli utenti. Cioè, se io ho un giornale sotto casa, piuttosto che ho un... sono un barista, cioè, voi volete fare quelli che producono la carta, sostanzialmente, usando come metafora quella dei giornali. No, noi vi facciamo la carta, voi ci scrivete sopra, poi vediamo cosa succede. Ha dei contenuti che possono essere interessanti per altre persone e magari a valore aggiunto, perché quell'utente effettivamente è interessato a pagare per quel contenuto, ben venga. Noi vorremmo fornire questo strumento è chiaro, Marrone. Tra l'altro, Luca, questa è un po' la chiave di Twitter, cioè la chiave di Google, cioè la chiave di tutte queste tecnologie. Diciamo anche perché poi è un'osservazione che è possibile fare guardando dall'alto queste business piattaforme, in effetti, cioè, no? Sostanzialmente come fanno i soldi Google? Ma li fanno una volta che queste piattaforme, una volta che il motore di ricerca ha successo, è pieno di persone, allora a quel punto trovano il modo di guadagnare. Stesso discorso per Twitter. Twitter non è ancora chiarissimo, però insomma anche lì io vi creo una piattaforma, venite in tanti, giocate, fate quello che dovete fare, scrivete, pacciugate quant'altro, poi una volta che insomma questi network, queste piattaforme saranno cariche di individui, di vite, di dati, di contenuti, allora a quel punto qualche cosa mi vado ad inventare. Ecco, il trampolino di lancio, quindi, in effetti, sono poi le persone. Sono gli utenti. Sono le persone che condividono le cose e, come ci sta raccontando anche Marrone, in effetti lo possono fare poi attraverso canali differenti. E quindi l'SMS, che noi siamo abituati a pensare come un messaggino breve, di fatto su queste piattaforme però diventa qualcosa di più, diventa qualcosa che si può condividere, diventa qualcosa che può creare, diciamo, una rete di collegamenti, e che può avere, ecco, delle conseguenze al di là di quello che possiamo immaginare, perché diventa pubblico. Ecco, non so, se l'ortolano, adesso viene una metafora stupida, però insomma, se l'ortolano deve spiegare che sempre più persone amano la verdura, chiaramente voi dovete sperare nella capacità, nella voglia delle persone di raccontarsi o di avere qualcosa da dire, perché tutti questi strumenti servono per dire cose. E questa è la sua speranza, Marrone? Sì, sì, sicuramente questa è la speranza, però appunto riteniamo che ci siano veramente tantissime persone, posso immaginare anche la pasticceria sotto casa mia che sforna le brioche calde, semplicemente dirama questo messaggio a tutti, chi è sottoscrive questo canale riceve sul proprio cellulare un SMS che dice guarda qui sotto ci sono le brioche sfornate. Secondo me la vera differenza in questo caso è che sono gli utenti che decidono a quali contenuti sottoscriversi, cioè la pubblicità non è vista come invasiva o come fastidiosa, perché effettivamente l'utente che dice io sono interessato a questi contenuti, sono io che decido quando voglio attivarli, se voglio cancellarmi ogni momento. È chiaro, è chiarissimo, è chiarissimo. Quindi mi sottoscrivo e ricevo in tempo reale gli aggiornamenti. Grazie Marrone, grazie Marrone. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolare al microfono, Luca Dello Jacopo con lui in studio, mentre a Copenaghen abbiamo Gigi Donelli. Buongiorno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Luca, saluto gli ascoltatori, ho di fronte a me quattro marziani in questo momento. Andiamo bene, si parte bene, eh? Si parte forte, si parte verde, questa si vede che è la fase in cui, mentre le delegazioni discutono sui numeri, si cerca di fare, di richiamare l'attenzione ovviamente dei media su tematiche specifiche. Un modo come un altro è vestirsi da marziano, completamente di verde, e appunto lanciare dei messaggi come regalateci un anno picco per le emissioni nel 2015, cioè diciamo una speranza che pare assolutamente inverosimile, come appunto i ragazzi che la portano per i saloni. Quindi ieri un'altra speranza, insomma, mi pare essere arrivata in serata in questa conferenza stampa organizzata all'ultimo momento, dove insomma sono stati dichiarati nocivi l'effetto serra da parte degli Stati Uniti. È stata letta questa mossa come un avvicinamento delle posizioni degli Stati Uniti verso quelle che sono le tesi di Copenaghen. Sì, assolutamente, come dire, un elemento di speranza, ma bisogna anche subito compensare. Proprio oggi il Presidente della Commissione Europea, Barroso, ha detto attenzione, qui a Copenaghen non si raggiungerà nessun trattato vincolante, magari un accordo sarebbe già importante. Insomma, è vero quello che dici. Ieri sera la notizia peraltro è arrivata mentre si festeggiava, si ballava nella Radhusplatz, che è la piazza del comune di Copenaghen, e quindi è stata accolta con grande favore. Ovviamente non fa che accrescere l'aspettativa per il viaggio di Obama il 18 di dicembre, cioè venerdì prossimo. Quindi per ora ti dovrai accontentare degli extraterrestri in attesa di Obama. Noi ci collegheremo con te anche domani. Benissimo, allora ci sentiamo domani. Ti ringrazio. Passiamo invece, ritorniamo in studio con Luca Dello Jacopo per introdurre il nuovo ospite, Daniele Calabrese. E lo chiamiamo direttamente dove? Lo chiamiamo direttamente negli Stati Uniti, in Texas, dove si trova adesso. Buongiorno Calabrese, che ci fa in Texas? Salve. Molto contento di partecipare. Sono ad Austin in Texas, sono arrivato da San Francisco. Ritornerò questa sera a Washington, che è la base operativa di Soundtracker insieme a San Francisco. Sono in Texas per incontrare dei potenziali investitori. Ecco, allora adesso raccontiamo un po' la storia di Daniele Calabrese, ma prima ascoltiamo la scheda. Quarant'anni fa sono nate le prime radio libere, ma adesso la diffusione dei cellulari può cambiare di nuovo gli scenari. È la scommessa di Daniele Calabrese, 34 anni, originario di Cosenza. Dopo la laurea a Napoli, ha lavorato per 10 anni negli Stati Uniti alla Banca Mondiale, un'istituzione finanziaria internazionale specializzata nell'intervento nei paesi in via di sviluppo. Dagli uffici di Washington, Daniele Calabrese ha seguito i progetti di privatizzazione in nazioni povere come Nigeria, Ghana, Egitto, Nicaragua. È stato un osservatorio privilegiato per scoprire la rapida crescita della telefonia mobile. Oggi sono 4 miliardi le persone che hanno un cellulare. Il recente successo di iTunes ha convinto Marrone a lanciare Soundtracker, una piattaforma che permette alle persone di costruire il proprio palinsesto radiofonico e condividerlo con gli amici. Insomma, delle radio libere ma digitali. Prima di parlare un po' della sua iniziativa, del suo progetto, Calabrese, lei da quanto tempo è negli Stati Uniti? 12 anni. Accidenti. E come mai ha pensato di abbandonare la Banca Mondiale, questa istituzione così prestigiosa, poi per lanciarsi in questa avventura? Beh, ovviamente era il mio grande sogno americano quello di fare la mia startup, incontrare delle spettacolari professionalità nel campo del digitale e cogliere l'opportunità dell'esplosione degli smartphone in America con iPhone e Google Phone e... Insomma, era il suo obiettivo. Il mio sogno americano. Ecco, insomma, questo sogno americano mi sembra che comincia a diventare un po' concreto. Il sogno qual è? Cioè, il progetto che sta dietro la sua iniziativa è quella della radio libera, insomma, tornare agli anni 70 in un certo senso. No. Vedi, il momento dello smartphone, però poi non funzionano le telefonate. I momenti improvvisi in cui purtroppo adesso proviamo a richiamare Calabrese. Il dato di fatto però è che il palinsesto personalizzato e la possibilità di creare dei social network legati al... Che su internet in effetti sta iniziando a prendere un po' piede, cioè per esempio Last FM, che è un'idea abbastanza simile a quella di Calabrese, in cui le persone possono, diciamo, condividere dei brani musicali relativi poi quindi a generi musicali, per esempio jazz oppure folk o musica pop, e quindi possono ascoltare in modo legale e gratuito la musica attraverso internet, decidendo quali sono i brani da selezionare. Nel frattempo è tornato Calabrese, insomma non bisogna fidarsi troppo delle telecomunicazioni. Cadono assolutamente anche... no. Cadono anche le telefonate. E poi sa, negli Stati Uniti l'iPhone è in mano solamente a un operatore mobile, quindi il paese della competizione in realtà ha creato un interessante monopolio, per cui cadono ancora le telefonate. Ecco, qual è il suo punto? Cioè, che aria si respira a San Francisco verso questo tipo di progetti? Cioè, c'è un'attenzione particolare, c'è un'attenzione forte? Un'attenzione grandissima, direi. E tengo in considerazione che ormai San Francisco è diventato il polo di sviluppo della telefonia mobile, perché nel giro di 15 chilometri c'è la Apple con iPhone, Google con Android, Palm, Windows e il nuovo centro di sviluppo di Nokia. Quindi, diciamo, la Silicon Valley diventa di nuovo il centro di sviluppo e creazione di innovazione, in questo caso nel campo del mobile. Ecco, però l'Italia è anche un paese dove ha già un'altissima concentrazione di telefonini per abitante, è proprio il caso di dirlo. Come sta andando? Lei ha proposto chiaramente il progetto Soundtracker anche in Italia. Com'è che è il suo sentore, il suo feeling rispetto al nostro paese? Diciamo che il feeling è molto positivo, perché l'Italia ovviamente è un paese molto social e l'adozione di Facebook e Twitter, soprattutto Facebook sul mobile, è strepitosa, quindi l'introduzione della possibilità di ascoltare la musica, scambiarla in tempo reale con i propri amici e programmare il proprio palinsesto sembra essere, utilizzare la musica come strumento di comunicazione sembra essere un business molto interessante per un paese come l'Italia. Ecco, È un terreno fertile, diciamo, è un po' complesso gestire gli aspetti delle licenze musicali, cosa che negli Stati Uniti invece è un po' più semplice. Ecco, perché tra l'altro già sono arrivati un paio di SMS che dicono che bello la possibilità, insomma, di fare un proprio palinsesto personalizzato, ma poi non è così semplice, ci sono i diritti, almeno quantomeno in Italia non è che si può fare copia e incolla con la radio che passa da internet. No, sostanzialmente l'applicativo è molto semplice, consente agli utenti che hanno musica residente nel proprio cellulare di far partire le stazioni radio, e noi sulla base delle preferenze degli utenti inviamo via 3G o Wi-Fi, in presenza di Wi-Fi, il resto delle stazioni, il resto della musica. In qualsiasi momento l'utente può selezionare, mettere in condivisione, inviare la stazione ad altri utenti soundtrack e invitarli sia sul mobile che sul web, e quindi costruire, diciamo, una classe di amici, di ascoltatori, se vuole, di follower, di news followers, di ascoltatori musicali. Ecco, è una radio di gruppo in effetti, quindi. Sì, perché sì, sostanzialmente sì, quello che noi chiamiamo micro broadcasting o social broadcasting, quindi ascolto io una canzone, metto in condivisione, creo una stazione, si collegano gli altri amici e insieme, diciamo, diventiamo dei DJ. E l'aspetto interessante è che è tutto quanto geolocalizzato, cioè la stazione viene creata e la posizione GPS dà, diciamo, un segnale per cui tutte le stazioni hanno un luogo geografico di emissione. Ecco, ci sono degli esperimenti che avete fatto finora che vi dicono che cosa iniziano a fare le persone con questo, quando hanno questo tipo di strumento, degli esperimenti per capire un attimo come le persone gestiscono in effetti questo? Le do un paio di esempi proprio molto, diciamo, interessanti. Il primo è quello della dedica musicale. Quindi l'esperimento, diciamo, il caso classico è una persona che dedica una canzone al proprio caro, alla propria cara, in aeroporto. Quindi abbiamo trovato moltissime canzoni e stazioni che vengono selezionate e inviate agli aeroporti, soprattutto negli aeroporti di Miami e di New York. Quindi per una persona che viaggia in partenza o in arrivo, una canzone viene dedicata dal proprio caro e lasciata in aeroporto per l'arrivo e la partenza del nostro utente soundtrack. Io ringrazio Daniele Calabrese, purtroppo il nostro tempo è finito, però noi insisteremo su questo tema, torneremo a parlarne, soprattutto sul nostro Twitter metteremo tutti gli indirizzi per avere ulteriori informazioni su questo nuovo sito servizio palinsesto, lo chiamiamo così? Con piacere, e il servizio andrà live quindi negli Stati Uniti l'11 dicembre e conto di portarlo in Italia prima dell'estate del 2010. In bocca al lupo! Nova Lab 24. Allora, bentornati. Allora, innanzitutto una informazione per Carlo Seberich. Non è scritto scabbi con la A, che vuol dire giustamente rognoso, meschino, inutile, eccetera. È scabbi con la E, per cui S-K-E-B-B-Y greco. Questa era per una domanda via SMS che appunto mi chiedeva perché questa azienda era chiamata in un modo così strano. Tra l'altro pare che non abbia nessun significato poi. Tra l'altro pare che non abbia nessun significato. Insomma, Dario Salvelli, tiriamo le conclusioni, facciamo una previsione. Che cosa diventerà da qui ai prossimi 2 anni Twitter? Uno strumento nelle mani delle aziende o resterà un diario personale dove fare live blogging? Ma secondo me entrambe. Volevo ricollegarmi a quanto dicevamo prima, è già uno strumento che usano aziende. Ad esempio in America ci sono molte caffetterie o ristoranti che usano Twitter per comunicare ai clienti, ad esempio non so, sconti oppure il piatto del giorno. Il Sunday Times qualche mese fa raccontò di questo chef americano che dalle cucine del suo ristorante pubblicava su Twitter le foto sui piatti ed ha creato attorno a sé una vera e propria community di fan, di clienti, anche di colleghi cuochi con i quali dialoga. Secondo me quindi ci sono due utilizzi, uno è quello dell'utente che magari ha necessità di pubblicare le cose che ritiene interessanti, ma anche di dialogare con gli amici, dall'altra un lato invece più dedicato alle aziende che possono utilizzarlo anche per fare assistenza nei confronti dei clienti. Ecco Salvelli, 2 Twitter che lei segue, sono tornato a dare del lei, però va bene lo stesso. Ma 2 Twitter, uno è quello di Eric Schmidt che è il CEO di Google, che ha recentemente aperto un account su Twitter. E che dice il CEO di Google, il capo mondiale di Google, insomma, il presidente? Sì, tempo fa aveva dichiarato che Twitter era un sistema povero, assolutamente inutile, invece si è iscritto anche lui, è caduto anche lui nella trappola, tra virgolette. Anche lui adesso ha la malattia, l'addiction. Sì, l'addiction a Twitter. E poi ci sono, poi seguo comunque i principali, ovviamente oltre Nova Lab 24 che è il vostro account. Aspettavamo io e diciamo, vediamo realtà... quanto tempo ci mette, prego. Poi seguo anche ad esempio l'account di Dig, che anche questo è un famoso servizio che aggrega notizie e news. Mm. E poi comunque i principali magazine italiani anche loro hanno aperto recentemente una su Twitter. C'è si informa spesso, diciamo, è uno strumento ecco di informazione, è quasi un giornale in effetti. Sì, sì, è quasi un lettore di news. Ovviamente bisogna sapersi muovere, perché diciamo prima il rumore, troppe informazioni a volte è veramente difficile. Ecco, una domanda secca. Quando si fa? Cioè, a che ora si collega? Quante volte al giorno? Come se fosse una pillola, ecco, una medicina. Ma io non riesco a seguire ovviamente tutti gli aggiornamenti. Ho un tot di contatti che sono all'incirca 500, apro la mattina Twitter, mi collego, cerco di leggere, tra l'altro ci sono diversi strumenti. Quindi la mattina siamo in chiusura velocissimo. La mattina, pomeriggio, sera, super giù, tre volte perfetto. Al giorno. Mattina, pomeriggio, sera, tre volte al giorno. Grazie. Mentre noi ci sentiamo domani alle 16, un saluto a Luca Dello Jacopo e un saluto a Luca da Luca Tremolada.